11. Prime impressioni. Margaret! Esclamò il signor Hale tornando dopo aver accompagnato alla porta il suo ospite. Non ho potuto fare a meno di guardare la tua faccia con una certa preoccupazione quando il signor Thornton ha confessato di essere stato un commesso da giovane. Io ne sono venuto a conoscenza diverso tempo fa dal signor Bell, quindi sapevo cosa aspettarmi, ma ho quasi creduto che tu ti alzassi e lasciassi la stanza. Oh, papà, non vorrai dire che mi ritieni così sciocca. Mi è davvero piaciuto il racconto della sua vita, più di ogni altra cosa che ha detto. Tutto il resto mi ha disgustata per la sua durezza, ma ha parlato di sé con una tale modestia, senza quelle pretese che rendono volgare la gente di bottega, e con un tale affettuoso rispetto per sua madre, che era meno probabile che lasciassi la stanza in quel momento che quando si stava vantando di Milton come fosse l'unico posto al mondo. O mentre professava tranquillamente il suo disprezzo per gli sprovveduti e gli spreconi, senza sembrare minimamente pensare che fosse un suo dovere cercare di cambiarli, di dare loro un po' dell'insegnamento che sua madre aveva dato a lui e al quale deve evidentemente la sua posizione, qualsiasi essa sia. No, la dichiarazione di essere stato un commesso è stata la cosa che ho apprezzato più di tutto. Mi sorprendi, Margaret, disse sua madre. Tu che accusavi sempre la gente di Helston di andare troppo per negozi, non penso che abbiate fatto bene, signor Hale, a presentarci una tale persona senza raccontarci il suo passato. Ho avuto davvero tanta paura che si accorgesse del mio turbamento per certe cose che diceva. Suo padre è deceduto in circostanze miserevoli. Oh, magari perché è morto in un ricovero per mendicanti? Beh, credo che sia stato peggio che trovarsi in un ricovero per mendicanti, rispose suo marito. Il signor Bell mi ha raccontato un bel po' della sua vita passata prima di venire qui, e siccome lui ve ne ha detta una parte, aggiungerò io quello che ha omesso. Suo padre era un grande speculatore, andò in fallimento e poi si suicidò perché non riusciva a sopportare la vergogna. Tutti gli amici di un tempo sparirono al momento delle rivelazioni che si dovettero fare sui suoi traffici disonesti. Battaglie forsennate, senza possibilità di successo, fatte con i soldi di altri per recuperare la sua modesta porzione di ricchezza. Nessuno si fece avanti per aiutare la madre e questo ragazzo. C'era un altro bambino, credo una femminuccia, troppo piccola per guadagnare denaro, ma doveva certamente essere mantenuta, e alla fine nessun amico si fece avanti sul momento. E la signora Thornton non è il tipo di persona, immagino, che rimane ad aspettare che qualche benefattore dell'ultimo minuto venga in suo soccorso. Così lasciarono Milton e il figlio andò a lavorare in una bottega. I suoi guadagni, con una piccola rendita garantita a sua madre, vennero fatti bastare al loro mantenimento per un bel pezzo. Il signor Bell mi ha detto che hanno vissuto esclusivamente di porridge con acqua per anni, anziché con latte. Come avessero fatto non lo sapeva. Tuttavia, molto tempo dopo che i creditori avevano abbandonato la speranza che i debiti del vecchio Thornton venissero in qualche modo pagati, se mai ci avevano sperato davvero dopo il suo suicidio, questo giovanotto fece ritorno a Milton, andò con tranquillità a cercare tutti i creditori e pagò loro la prima rata del debito. Nessuna reazione, nessuna riunione dei creditori. Ogni cosa venne fatta senza scalpore e in silenzio, ma tutto fu pagato fino all'ultimo centesimo. Fu aiutato finanziariamente proprio da uno dei creditori, un individuo vecchio e scontroso, a sentire il signor Bell, che prese il signor Thornton come una specie di socio. Oh, il che è davvero ammirevole, disse Margaret. Che peccato che una simile indole debba essere guastata dal fatto che ricopre la posizione di industriale qui a Milton. Come guastata? Chiese suo padre. Oh, papà, con quel suo valutare ogni cosa in base alla ricchezza, quando parlava dei poteri della meccanica, era evidente che li considerava soltanto come nuovi modi di allargare il mercato e fare soldi, e i poveri che gli stavano intorno, poveri perché viziosi, erano estromessi dalla cerchia delle sue simpatie, perché non avevano la sua indole di ferro e quelle possibilità che gli derivano dall'essere ricco. Non viziosi, non ha mai detto questo. Sprovveduti e indulgenti verso se stessi sono state le sue parole. Margaret stava raccogliendo il materiale da lavoro della madre e si stava preparando per andare a letto. Proprio mentre stava per lasciare la stanza, esitò. Era propensa ad ammettere qualcosa che pensava avrebbe fatto piacere a suo padre, ma che, per essere esaustiva e sincera, non poteva tralasciare di rivelare una certa irritazione. Ad ogni modo le venne fuori. Papà, penso davvero che il signor Thornton sia un uomo straordinario, ma personalmente non mi piace affatto. E a me sì, disse suo padre ridendo. Personalmente, come hai detto tu, è completamente. Non pretendo che sia un eroe, né niente del genere. Ma buonanotte, figlia mia. Tua madre sembra molto triste e stanca stasera. Margaret aveva notato con preoccupazione che la madre sembrava affaticata negli ultimi tempi e questa osservazione del padre la faceva andare a dormire con un certo timore che le pesava sul cuore. La vita a Milton era così diversa da quella che la signora Hale era abituata a fare a Helston, continuamente dentro e fuori, all'aria aperta e fresca. L'aria stessa era così diversa. Spogliata di tutti quegli elementi rinvigorenti, come sembrava qui, le preoccupazioni domestiche creavano una pressione così forte e in una forma nuova e sordida su tutte le donne della famiglia, che c'erano buone ragioni di temere che la salute della madre potesse esserne seriamente influenzata. C'erano molti altri segnali che qualcosa non andava nella signora Hale. Nella camera da letto teneva riunioni segrete con Dixon e da lì. La domestica usciva arrabbiata e in lacrime, come era sua abitudine, quando qualche sofferenza della signora richiedeva il suo sostegno. Una volta Margaret era entrata nella stanza, subito dopo che era uscita Dixon, e aveva trovato sua madre inginocchiata. Uscendo furtivamente colse alcune parole, chiaramente di preghiera, per ottenere la forza e la pazienza di sopportare acute sofferenze fisiche. Margaret desiderava ardentemente ricreare quel legame di intima confidenza che era stato rotto dalla sua lunga permanenza a casa di zia Shaw e con delicate carezze e parole gentili lottava per scivolare nell'angolo più caldo del cuore della madre, ma pur ricevendo a sua volta carezze e tenere parole di affetto in una tale quantità che una volta l'avrebbe resa contenta, sentiva che c'era un segreto che le veniva nascosto e credeva che fosse proprio collegato alla salute di sua madre. Rimase sveglia a lungo quella notte, pianificando come ridurre la cattiva influenza della loro vita a Milton sulla madre. Una domestica che fornisse a Dixon un aiuto costante l'avrebbe pur trovata se avesse dedicato tutto il suo tempo a cercarla. E allora, qualunque cosa fosse accaduta a sua madre, avrebbe avuto tutta l'attenzione personale di cui c'era bisogno e alla quale era stata abituata per tutta la vita. Le visite agli uffici di collocamento, gli incontri con candidate poco promettenti di ogni sorta e tutte ben lontane dall'essere adatte, assorbirono il tempo e i pensieri di Margaret per parecchi giorni. Un pomeriggio incontrò Bessie Higgins per strada e si fermò a parlare con lei. «Allora, Bessie, come stai? Meglio, spero, adesso che il vento è cambiato». Un po' meglio e un po' peggio, se lo capite cosa vuol dire. Beh, non esattamente, rispose Margaret sorridendo. Beh, che sto meglio perché la tosse di stanotte non mi ha fatta pezzi, ma sono stufa di Milton e non vedo l'ora di andarmene nella terra di Beulah, la terra di Israele. E quando penso che sono molto, molto lontana, sento un tuffo al cuore e non sto meglio, sto peggio. Margaret svoltò per camminare accanto alla ragazza, che procedeva fiaccamente verso casa. Ma per un paio di minuti non disse nulla e alla fine chiese a bassa voce: Bessie, non vuoi più vivere? Infatti, lei la morte la rifuggiva con tutto quell'attaccamento alla vita che è così naturale per chi è giovane e in salute. Bessie rimase a sua volta in silenzio per qualche minuto, poi rispose: Che se la fate voi la vita che faccio io e se ne siete stanca come me e a volte pensate forse durerà per 50 o 60 anni, a qualcuno succede, e vi sentite frastornate con le vertigini e la nausea, come se ognuno di sti 60 anni mi vuole rotare intorno e prendermi in giro con le sue lunghe ore, i minuti e gli istanti interminabili. Oh, ragazza mia, vi dico che siete ben contenta quando il dottore vi dice che ha paura che non vedrete un altro inverno. Perché, Bessie, com'è stata la tua vita? Oh, non peggiore di quella di molti altri, credo, solo che io mi sono consumata e loro no. Ma che cosa è successo? Sai, non sono di qui, perciò forse non sono così veloce a comprendere cosa intendi, come potrei invece fare se avessi vissuto a Milton tutta la vita. Che se venivate a casa nostra, come avevate detto, magari ve lo potevo dire, ma papà ha detto che siete proprio come gli altri, lontano dagli occhi, lontano dal cuore nel caso vostro. Ma io non so chi siano gli altri e sono stata molto impegnata e, a essere sincera, avevo scordato la mia promessa. Voi vi siete offerta. Non abbiamo chiesto niente noi. Per il momento avevo dimenticato quello che avevo detto, continuò Margaret con calma. Ci avrei ripensato quando fossi stata più libera. Posso venire con te adesso? Bessie diede un'occhiata furtiva al volto di Margaret per vedere se la volontà che aveva espresso fosse veramente sentita. La durezza del suo sguardo si mutò in un forte e malinconico desiderio, incontrando gli occhi delicati e gentili di Margaret che la fissavano. Non ho nessuno che si preoccupi per me. Se vi importa, venite pure. Continuarono quindi a camminare in silenzio. Mentre svoltavano in una piccola corte che si affacciava su una strada squallida, Bessie disse: Non vi scoraggiate se papà è a casa e parla un po' sgarbato all'inizio. M'ha preso in simpatia e ci teneva che venivate a trovarci. È proprio perché gli piacete c'era rimasto male. Oh, non temere, Bessie. Ma Nicholas non era a casa quando entrarono. Una ragazzona sciatta, più giovane di Bessie, ma più alta e robusta, era affaccendata al mastello e batteva sul mobile in modo rozzo eppure efficace, ma facendo un tale fracasso che Margaret indietreggiò, provando compassione per la povera Bessie, che si era seduta sulla prima sedia come se fosse completamente sfinita per la sua camminata. Margaret chiese alla sorella un bicchiere d'acqua. E mentre quella correva a prenderlo, sbattendo contro i ferri del caminetto e inciampando su una sedia lungo il tragitto, sciolse i lacci del cappellino di Bessie per farla respirare meglio. Pensate che ne valga la pena darsi pensiero per una vita così? Annaspò alla fine Bessie. Margaret non parlava, ma le teneva il bicchiere d'acqua sulle labbra. Bessie ne prese un lungo, intenso sorso e poi cadde all'indietro e chiuse gli occhi. Margaret la sentì mormorare tra sé e sé. Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta. Era l'Apocalisse. Margaret si chinò su di lei e disse: Bessie, sii paziente con la tua vita, qualsiasi essa sia o possa essere stata. Ricorda chi te l'ha data e l'ha fatta così com'è. Trasalì, sentendo Nicholas che parlava dietro di lei, era entrato senza che lei se ne fosse accorta. Allora, badate bene di non fare prediche alla mia bambina. È già messa male così, coi suoi sogni e le sue fantasie metodiste e le visioni di città, coi cancelli dorati e pietre preziose. Se ci si svaga, ci passo sopra, ma non voglio che le finisce in testa altra robaccia. Ma di sicuro, disse Margaret voltandosi, voi credete in ciò che ho detto? Che Dio le ha dato la vita e ha disposto che tipo di vita doveva essere. Non è così? Io credo in quello che vedo e nient'altro. Questo è quello che credo, ragazzina. Non credo a tutto quello che sento, no, per niente. Una ragazzetta che fa tanto chiasso per sapere dove abitiamo e per venire a trovarci, quella l'ho sentita. La mia bambina qui ci ha pensato tanto e molte volte è arrossita, non sapendo che la stavo guardando, per il rumore di passi sconosciuti. Ma la signorina è venuta finalmente ed è la benvenuta, fin quando farà a meno di predicare su cose di cui non sa niente. Bessie aveva guardato il volto di Margaret. Si era tirata un po' su per parlare, tenendo la mano appoggiata sul braccio di Margaret con un gesto di supplica. Che non vi infastidite con lui, più di uno la pensa come lui, molti qui. Se sentite parlare loro, lui non vi scandalizza. Papà è un bonaccione, ma... Oh! Disse cadendo all'indietro disperata. Quello che dice a volte mi fa desiderare ancora di più di morire, perché voglio conoscere così tante cose e mi sento tremare per le meraviglie che mi aspettano. Povera bambina, povera vecchia ragazza mia, mi addolora contrariarti davvero, ma un uomo deve parlare per la verità, e quando vedo che il mondo va sempre peggio di questi tempi, e la gente si preoccupa di cose di cui non sa nulla, e lascia incompiute, tutte quelle cose che rimangono in disordine proprio lì sotto il loro naso. Perché, dico io, non lasciar perdere tutti questi discorsi sulla religione e non mettersi a lavorare su quello che si vede e si sa. Questo è il mio credo. È semplice e non troppo difficile da comprendere né da praticare. Ma la ragazza continuava a supplicare Margaret. Non pensate male di lui. È un uomo buono lui. Ogni tanto penso che sarei divorata dal dolore persino nella città di Dio se papà non ci fosse. Le sue guance erano in fiamme e gli occhi lucidi per la febbre. Ma tu sarai lì, papà. Ci sarai. Oh, il mio cuore. Vi posò sopra la mano e divenne di un pallore spettrale. Margaret la tenne fra le braccia e si mise sul petto la sua testa esausta per farla riposare. Sollevò i soffici capelli sottili dalle tempie e le bagnò con l'acqua. Con la prontezza dell'amore, Nicholas capiva tutti i cenni che lei faceva per chiedere svariati oggetti e persino la sorella, con gli occhi sbarrati, cercava di muoversi con una delicatezza forzata allo shh di Margaret. Poco dopo lo spasmo che preannunciava la morte passò e Bessie si sollevò e disse: Vado a letto, è il posto migliore, ma, afferrando il vestito di Margaret, verrete di nuovo. So che lo farete, ma ditelo lo stesso. Verrò domani, disse Margaret. Bessie si piegò all'indietro verso suo padre che si preparava a portarla di sopra. Ma appena Margaret si alzò per andarsene, lui tentò a fatica di dirle qualcosa. Vorrei che ci fosse un Dio, anche solo per chiedergli che vi benedica. Margaret se ne andò molto triste e pensierosa. Arrivò a casa in ritardo per il tè. A Helston la mancata puntualità all'ora dei pasti era una colpa grave agli occhi di sua madre. Ora però questa, come tante altre piccole irregolarità, sembravano aver perso il loro potere di irritazione e Margaret quasi rimpiangeva le vecchie lamentele. Hai trovato una domestica, cara? No, mamma, quella Anne Buckley non sarebbe mai andata bene. Immaginate che ci provi io, disse signor Hale. È toccato a tutti il proprio turno in questo guaio. Adesso fatemi provare. Potrei essere la Cenerentola che indossa la scarpetta di vetro, dopo tutto. Margaret riuscì a stento a sorridere a questa battuta talmente ravvilita dopo la visita agli Higgins. Cosa faresti, papà? Come inizieresti? Ah, mi rivolgerei a qualche brava madre di famiglia per farmi raccomandare qualcuno che lei o i suoi domestici conoscono. Perfetto, ma dobbiamo prima trovare la nostra madre di famiglia. L'hai trovata? O meglio, sarà lei a cadere in trappola e la catturerai domani se sarai abile. Cosa volete dire, signor Hale? Chiese sua moglie con crescente curiosità. Beh, il mio alunno modello, come lo chiama Margaret, mi ha detto che sua madre desidera far visita alla signora e alla signorina Hale domani. La signora Thornton! Esclamò la signora Hale. La madre di cui ci ha parlato? La signora Thornton, l'unica madre che ha, credo, disse il signor Hale. Sarò lieta di incontrarla. Deve essere una persona davvero fuori dal comune, aggiunse sua madre. Forse conosce qualcuna che potrebbe andarci bene e che potrebbe essere contenta della nostra casa. Deve essere una persona così accorta e parsimoniosa che mi piacerebbe chiunque della sua famiglia. Mia cara, disse il signor Hale allarmato. Ti prego di lasciar perdere questa idea. Io immagino che la signora Thornton sia a suo modo altezzosa e orgogliosa come la nostra piccola Margaret lo è nel suo, e che voglia completamente ignorare quel passato di sofferenza e povertà e risparmio del quale lui ha parlato così apertamente. Sono certo ad ogni modo che non gradirebbe che degli sconosciuti ne siano a conoscenza. Fai attenzione, papà, non sarà altezzosa nel modo in cui lo sono io, se davvero lo sono. Io non sono d'accordo, sebbene mi accusi sempre di esserlo. Non so se realmente lei lo sia, per quelle poche informazioni che ho raccolto da lui, però immagino di sì. A loro importava poco di chiedere in che modo il figlio aveva parlato di lei. Margaret desiderava soltanto sapere se doveva stare a casa a ricevere questa visita, visto che le avrebbe impedito di andare a vedere come stava Bessie fino al tardo pomeriggio, perché la mattina presto era sempre impegnata con le faccende domestiche e poi si ricordò che non poteva lasciare a sua madre tutto l'incomodo di intrattenere l'ospite. 12. Visite mattutine. Il signor Thornton aveva avuto qualche difficoltà a far raggiungere a sua madre il livello di cortesia che lui desiderava. La signora Thornton non andava spesso a far visita e quando lo faceva era con grande rigidità che si atteneva ai suoi doveri. Suo figlio le aveva fatto avere una carrozza, ma lei non gli permetteva di tenere i cavalli, che venivano presi a noleggio per le occasioni speciali, quando andava a trovare qualcuno di mattina o di sera. Aveva avuto i cavalli per 3 giorni, neanche 2 settimane prima, e aveva comodamente fatto fuori tutte le sue conoscenze. E ora sarebbe toccato a loro prendersi il disturbo e spendere soldi. Tuttavia Crampton era troppo lontano per lei per poterci andare a piedi e aveva ripetutamente chiesto al figlio se questo suo desiderio che lei facesse visita agli Hale fosse così forte da valere le spese della carrozza a noleggio. Sarebbe stata sollevata se così non fosse stato. Infatti, come disse, non vedeva l'utilità di fare amicizia e diventare intimi con tutti gli insegnanti e i maestri di Milton. La prossima volta le avrebbe chiesto di far visita alla moglie del maestro di ballo di Fanny. E infatti lo farei, madre, se il signor Mason e sua moglie non avessero amici e fossero in un posto nuovo come gli Hale. Oh, non parlare con così tanto astio. Ci andrò domani. Volevo soltanto che tu l'avessi capito bene. Se ci andrete domani dovrò ordinare i cavalli. Sciocchezze, John. Penserebbero che sei ricco sfondato. Non abbastanza ancora, ma riguardo ai cavalli non si discute. L'ultima volta che siete stata fuori con una carrozza a noleggio siete tornata a casa con il mal di testa per gli scossoni. Non me ne sono mai lamentata, ne sono certa. No, non è da mia madre lamentarsi, disse lui con un po' di orgoglio. E proprio per questo devo tenervi d'occhio ancora di più. Ora, riguardo a Fanny, un po' di sacrificio le farebbe bene. Oh, non è fatta della tua stessa pasta, John. Non riuscirebbe a sopportarlo. Detto questo, la signora Thornton restò in silenzio. Infatti, le sue ultime parole rimandavano a un argomento che la mortificava. Disprezzava inconsciamente i caratteri deboli e Fanny era debole proprio in quei punti in cui sua madre e suo fratello erano forti. La signora Thornton non era una donna che stava troppo a riflettere. La sua prontezza di giudizio e la sua risoluta fermezza le tornavano molto utili nelle lunghe argomentazioni con se stessa. Sentiva per istinto che nulla poteva rafforzare Fanny nel sopportare pazientemente i sacrifici o nell'affrontare le difficoltà con coraggio e, sebbene si irrigidisse quando faceva tra sé e sé questa constatazione sulla figlia, allo stesso modo era portata ad assumere un atteggiamento piuttosto tenero e compassionevole nei suoi confronti, lo stesso comportamento che sono solite avere le madri con i figli deboli e malaticci. Un estraneo, un osservatore poco attento, avrebbe potuto pensare che l'atteggiamento della signora Thornton verso i suoi figli fosse indice di un maggior affetto che provava per Fanny rispetto a John, ma si sarebbe sbagliato di grosso. Proprio quel coraggio con cui madre e figlio parlavano di verità sgradevoli l'uno con l'altra rivelava una fiducia reciproca che aveva radici profonde e solide. Quell'ansiosa tenerezza nei modi della signora Thornton verso la figlia, la vergogna al pensiero di dover nascondere quanto alla figlia mancassero tutte quelle qualità che lei stessa senza saperlo possedeva e alle quali assegnava un così alto valore negli altri, questa vergogna, direi, tradiva la volontà di proteggere in un posto sicuro i suoi veri sentimenti. Non chiamava mai il figlio con altri nomi se non John, mentre tesoro e cara e termini simili erano riservati a Fanny. Ma ringraziava di cuore per lui giorno e notte e camminava orgogliosa tra le donne, proprio perché aveva lui. «Fanny, cara, oggi prenderò i cavalli per la carrozza per andare a trovare questi Hale. Non dovresti andare a trovare la bambinaia? È di strada e lei è sempre così contenta di vederti. Potresti proseguire e andare lì mentre io sono dalla signora Hale». «Oh, mamma, è lontanissimo e sono così stanca!» «Stanca per cosa?» chiese la signora Thornton, corrugando leggermente le sopracciglia. «Non lo so. Il tempo, credo, è così snervante. Non potreste portarla qui, la bambinaia, mamma. La carrozza potrebbe andare a prenderla e lei potrebbe trascorrere il resto della giornata qui. So che le farebbe piacere». La signora Thornton non disse nulla, ma posò il suo lavoro sul tavolo e sembrò riflettere. «La strada è troppo lunga per lei per tornare indietro a piedi di notte», osservò alla fine. «Oh, ma la manderei a casa con una carrozza a noleggio. Non ho mai pensato di farla andare a piedi». A questo punto il signor Thornton entrò, prima di recarsi in fabbrica. «Madre, non serve che vi dica che se c'è qualsiasi piccolezza che possa essere utile alla signora Hale, che è ammalata, gliela offrirete, ne sono certo». «Ma se riesco a scoprire cosa, lo farò. Ma non sono mai stata malata io, quindi non mi intendo molto dei bisogni di un malato». «Bene, per questo c'è Fanny, allora, che ne ha sempre una. Sarà in grado di suggerire qualcosa, forse, non è vero, Fan?» «Non è vero, per niente», disse Fanny con tono capriccioso, «e non andrò con la mamma, ho il mal di testa oggi e non esco». E il signor Thornton sembrò infastidito. Gli occhi di sua madre erano chini sul lavoro mentre continuava a cucire attentamente. «Fanny, voglio che tu vada», disse lui in modo autoritario. «Ti farà bene anziché male. Mi farai un favore se vai e non farmi aggiungere altro sulla questione». Detto ciò, uscì bruscamente dalla stanza. Se si fosse fermato un minuto di più, Fanny si sarebbe messa a piangere per il suo tono perentorio, anche se aveva usato le parole «mi farai un favore». Quindi borbottò: «John parla sempre come se fossi una malata immaginaria, e io di certo non lo sono. Chi sono questi Hale per i quali fa tutto questo chiasso?» «Fanny, non parlare così di tuo fratello. Avrà delle buone ragioni, non importa quali, altrimenti non ci chiederebbe di andare. Sbrigati e preparati». Tuttavia, la piccola lite tra i suoi figli non rese la signora Thornton ben disposta verso questi Hale più di prima. Il suo cuore geloso ripeteva la domanda di sua figlia: «Chi sono queste persone per le quali si preoccupa così tanto che dovremmo prestare loro tutte queste attenzioni?» Tornò come il ritornello di una canzone, molto tempo dopo che Fanny se n'era già completamente dimenticata, nella piacevole eccitazione di vedere l'effetto di un nuovo capellino allo specchio.